Aiuto, fammi sentire questa radio. Genio. Ehi, e lo servi cambiato. Come? Sì, c'è il bip. Certo che sì. Microfono normale. Un po' amplificato. E Mickey Gay, a manetta ce l'hai. Controlla, ce l'ha scritto Mickey Gay. Mick, qualcosa c'è scritto. È un po' forte la radio. Va bene, va bene. Lì nel furgone non hai bisogno di niente, tu. Oh, no, beh, io ho le cose di cui viste. Qualcosa, se c'era qualcosa che non va, te lo dice. Bella la radio, 5 è perfetta, bella compressiva, e anche abbastanza forte per la tua modulazione. Oggi lo senti a Natalino, tu lo senti a Natalino. Mi sta provando la radio che gli è arrivata, il superstar. Bella modulazione c'ha, bella pimpante, 5, bella. Senti, ma no, non ce la fai uscire da lì, però vedrai che già si può fare. Ho voglia che si può fare. Il vento mi si è portato da immaginarci, ma sono ancora che vento è, che vento è oggi è caro, infatti mi voglio arrezzare perché arriva di fianco, peccato il sardo, la mazza di nell'embrari è pure greccare che voleva. Ma quello che stava parlando, prova una carica. E oggi lo senti a Natalino? Non ti sente, no, Natalino? C'è un'antenna di plastica, lui. Non ti sente, no? Cazzo, è aumentato un becco, lo siamo adesso sui 10:20. Sì, ma non lo abbassare a morte adesso, non aumenta appena appena, eh. E lascialo così a Santiago, no, si è arrivato a 9:10. E tu, ma l'amplificatore appoggio. E già ne ha fatti con l'apparecchio, non c'è bisogno di amplificare niente. E allora Ager, perché non vai, se hai montato l'antenna, perché non vai, te lo piazzi nel furgone? E già ti manca. Ah, così è. Non ho capito. Sì, sì, le funzioni sono come quello che hai, C'è l'osmo, certo che c'è l'osmo. Devi fare la calibrazione. Sì, sì, è come l'altro, non cambia niente. Santiago, quasi 9 arrivi, quasi 9. E io, sanno, infatti, lasciano in HI, lascialo HI, sanno la sala potenza, una sei alta. Non lo conosco, io sono per stare a Marco di Vecchiere, lui lo conosce bene. Ci sarà A, B, C, D, cos'è? Sì, quante bande c'ha? 5, 4, 6, quante bande c'ha? E quelle sono le bande. Adesso dov'è il tattino? A, B, C, dov'è? No, non so, comunque lascialo lì poi stasera, quando senti a Marco, glielo dice, te lo fai spiegare. E se non ti leggi un manuale, cazzo, se ne hai comprato nuovo, ci sarà il manuale, no? Guarda, le A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, sei bande, guardi dove corrispondono i canali alti, i canali bassi, capito? E così sai come muoverti, no? Che funzione ha quel dato, l'OV, HI, controllati tutto, leggitelo. E infatti basta leggerselo. Ho capito che così. Quindi lui, secondo l'ovviamente, deve corrispondere ai canali. Quindi basta leggere e sai che canale è. Cosa che c'è Natalino che va più forte, non capisco niente, così hai detto? E l'avrei messo in CAL, l'avrei messo in SWR, controlla. Quello deve rimanere in PO, credo, potenza. Se l'hai messo in SWR ti sta segnando le stazionali, non si muove perché stazionali non ne hai. Come? Se l'hai messo in PVR lo smitter non ti sale, per forza non ti sale, perché stazionali non ce n'è. Dove l'hai messo? Cazzo, ma non sai di G? Devi mettere in PVR, no, esce stazionale, PVR, power, PVR. Prova, avrà due potenze, avrà due posizioni. Guarda se l'hai messo in CAL, avrà educato la calibrazione. Capito? Toglio dal CAL, quella è la calibrazione per lo strumento. Ma poi io non riesco a comprendere, cazzo. Ma ti tocchi di senza di G, cazzo? Io non gioco. Leggete prima, no? Allora Natale, risolto, buonasera. Via, vabbè. Domani mattina non farò ciò che ho piazzato, dire, un'antenna, li punti, col vento, c'è cioè, spostata, non riesco. noi siamo della RAI, dove mattiamo andare lì, sono sempre se non ho cosa da fare, c'è urgenza per mia madre, e niente, spostati l'antenna un po', perché non vedo Rai 3, Rai 2, Rai 1, avanti, sta, ciao. Ecco, con questo piacere vuol dire che non è stata fatta bene. C'è Greccale, lo prende in pieno i punti per forza. C'è anche Gelabè e puntarla a Monte Oro. No, l'antenna è stata bene, abita a Monte Oro questo qua, Monte Oro ce l'ha di fronte. E lì il vento tira un bel, anche se l'antenna è stata bene. Purtroppo attiranti, forse magari, non so, qualcosa è successo di sicuro. Io gli ho detto, se qua ti dà un vento, non metti tirante, è un casino. Tu mi segni che se si è sfondata, che cos'è? Non so, non è stretta l'antenna TV o non è stretto il palo? Non è che il vento così gira l'antenna. Se è stretta bene non dovrebbe girarsi. Come è fatto? Io ci vediamo domani, cosa esce? Vuol dire che non è stretta bene l'antenna TV. Ma il palo è stretto bene, l'antenna TV, la gaffa non è stretta bene. Però va stretta bene, perché se no il vento la sposta. Basta. Appena non vedi più niente, capito? Va bene, vediamo Eugenio hai risolto il corso non serve a niente, il corso è per la banda laterale fino al corso. Ti ho detto che lì devi guardare, c'hai un tacco dove c'ha delle posizioni o dei tattini, CAL che è la calibrazione dello strumento, SWR che sono le stazionarie e power che è la potenza. Se tu non lo metti in potenza, in power, il tattino, non ti sale lo strumento. Ref gain devi toccare, devi mettere a manetta il ref gain, non il corse. Fine corse non c'entra niente, ref gain, mettilo a manetta. RF gain c'è scritto, mettilo al massimo. E se a manetta allora c'è problemi dove? Allora c'è la radio sola. Cosa devo dire? La vita siete anche Natalino. Mettilo, gira dall'altra parte, prova, mentre sto parlando io a portare il segnale al massimo. Non ho capito. Vuol dire che hai educato qualche cosa? Ai ai ai, come sto? Ma deve aumentare il segnale, non la radio. E oggi guarda che hai toccato qualcosa, certo? Io un po' me la cuore in radio. No tocche se, leggi prima di toccare, no tocche se. E se non vedi 10, lo puoi passare appena appena, ma. Pulito, se domani lo porto nel non mi devono rassurare. Andrea Michele. Con 30 euro se ne esce. Poi devi incassare anche tu. e poi gli avrà qualcosa, già, diciamo un'amica, di, diciamo, del circolo, così un marito, poi se procura cose me le regala, tipo magari carica batterie di computer, cose così, mi chiama, mi ha regalato tanti televisori di quelli vecchi e li ho regalati a gente che ne aveva bisogno, facciamo, sai com'è, ma non la guarda, tutto non la faccia, a me non mi costa niente. Beh, certo che sì. Carica batterie di computer portatili, neanche io non so se funziona, sono da controllare. Le presi via, li hanno sostituiti all'albergo di Marinetta, ci vuoi sul mansarda, vediamo se funziona. E cosa qua? Carica batterie di computer portatili. Ah, no, vabbè, tanto come servono me, questi caricabatterie si spaccano. Tanto sono tutti più o meno la 19, gli ampere lo stesso, sono da 3,5 se non mi ricordo. E guarda, si spacca, cosa fai? Tu lo apri, stacchi il cavo, lo metti in quello che hai, buono, e se non vuole caricare batterie. Io lo apro, poi lo in quello volata che non si vede quasi niente. Ho capito, no, questi sono nuovi. Poi ripeto, li hanno sostituiti. Se mi avesse funziona, vabbè. Dei controlli, questi ricambi, un sacco di implementatori, cioè. Va bene, va bene. Non ho già operato, là. Diciamo tutto bene, speriamo. E via. Tutto bene è andato. Aspetta un attimo che mi chiama, tutto bene è andato lui. Ho chiamato al telefono, mi ha risposto, sì sì. Perché se ho bisogno di qualcosa, di chiamarmi così, gli portavo, quello non so, acqua, avevo bisogno delle salviettine, ma io salgo domani, tanto quella cosa fa è stasera. Infatti. Ma cosa gli hanno messo un prismetter? Via. Via, vedo oramai. Sono tutti usciti. Se poi è andato bene, già va bene, dai. Chi è che mi ha chiamato? No, Radio 5, Radio 5. A casa di Marino, sì. Va bene, va bene. Ho sentito un po' cupo io di radio, non lo so, caro, so tu. Da me, stagni alle 9, non so, mi ascolti, Bobo. No, Marino, oggi con questo nudo, parla piano. Parla piano, non ho capito niente. È molto cupa quella radio, però frega che cosa, perché se parla Marino non si capisce niente. No, un bel cupa, cupa. Tonalità bassa, non ci sono acuti, tutto è passata la radio. Mamma mia. No, no, Antonio, lui, ancora peggio. Che microfono è? Mi puoi fermare con la fattura da una cosa, non so se è niente. Io la fattura da fattura. Ah, quello nero con la rotellina in alto? Sì, ah. Mamma mia, quanto sto uscendo male, Gabu. Come mai? Allora, no, comunque, non c'è la fattura, quindi è... Per andare a cosa, di cosa? Io avessi originale la capsula, non lo so, troppo cupa è Antonio, sì, il segnale va bene, rispetto all'altra volta ha migliorato tantissimo, però il microfono è impressionante, non si capisce niente. Più bassa è, però ha migliorato. E fai una via di mezzo, non abbassare di tutto. Guarda così, via di mezzo. Prova a mettere la metà. Guarda, posso la metà di là di lì. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dai, diciamo che è migliorato, ma comunque è sempre, sempre bruttina la radio, il segnale va bene. Vabbè. Natali, ma hanno dovuto lo cervello che ti aspettavo. Genio. Eugenio. Eia. Va bene, dove sei? Sotto casa tua. Va bene, va bene. Sei un po' più alto del camper come segnale. Va bene, va bene. Ottimo, sono andato con l'RPL. Ok, buono anche la radio, segnale 7. Perché quello non è schermato, Eugenio, non è come mettere un camper, no? Sì, per fare una cosa bella è rimettere un condensatore all'alternatore. Esatto, esatto, Eugenio, perché quello lì è più vecchiotto, capito? E quindi i rumori ti entrano di più. E sì, segnale 7, radio 5, perfetto. Diciamo che dal camper, da dove sei adesso, sotto casa tua, il segnale è un pochino più basso. Ma infatti è quello che sto dicendo, è questione di antenna. Però la radio è simile a quella del camper. E più o meno si equivalgono, forse è leggermente più alta questa. Prima è quando sei in movimento, un segnale forte, capito? Attaccati il microfono alla bocca. No, va bene, 5 è perfetta la radio. E tu non hai trovato di prendere la batteria? Beh, ma devi stare il motore acceso o il motore spento? Quella luce lì, praticamente la corrente c'è sempre, anche a motore spento. Radio va bene, no, va bene. Certo che se devi mettere qualcosa di più grosso devi prendere l'alimentazione dalla batteria, perché sennò lì c'è poca tensione, capito? Ti fa saltare il fusibile. Ho capito, ma l'amperaggio non è come diretto dalla batteria, capito? Sì, forse sì, e beh, se si accende la pallina rimane 12 volts anche lì. Però l'amperaggio è più basso. Invece dalla batteria lo prendi diretto e va meglio. Comunque, ultimo lavoro, Santiago 7, Radio 5. Se non fischia, non fa, è bella chiara la modulazione, però le stazionali misura. Ehi, ehi, vabbè, misura le stazionali, già non ci vuole niente. Ah, ciao, me. Cos'hai incombinato, Natali, sei tutta frusci? Sì, stai innescando. Ti sente anche Eugenio, figurati. Stai fischiando, come mai? Aspetta, Eugenio, cos'hai detto, Natali? No, adesso non c'è il radio. Cos'hai ducato? Cateriano di me. Sempre prende mano così, Bruto. Ah, Presidente, e come mai non sta andando bene come l'altra volta? No, c'è falso contatto nel microfono, Natali. No, non stai uscendo di radio. Muovi la rotellina muovi. Non è vero, Natali, quello Presidente, è anche più forte dell'altro, del magno. Non stai uscendo, o c'è la batteria scarica o c'è qualcosa che non va. Cosa, Natali? Sì, così stai uscendo, però più basso dell'altra volta. Cos'hai educato? Non devi avere un microfono, quello Presidente. Adesso sei più alto. E così lo devi lasciare. No, no, sta funzionando adesso. Dimmi oggi. Ma sul baracchino non è affidabile. Se ce l'hai a 1,3 lì, minimo ce l'hai a 1,5, 1,6. Capito? Quindi bisogna regolare l'antenna. Prova a abbassare appena appena lo stilo e ricontrolla lì. Ma anche se non è affidabile c'è un riferimento. Se scendono meno di 1,3 la lasci stare così. Molla quella vettina e abbassa lo stilo. Ok, se è tutto basso lo tiri appena appena più su. E per forza vuole fatto in due, lasciala così adesso. 1,3 non sono niente, è appena appena oltre il limite, però non succede niente, capito? L'importante è che siano 1,3, se sono 1,6, 1,7 sono già troppe. Vabbè, può essere che sia affidabile quello strumento, non lo so, devi chiedere a Marco, ma io so che è così, giusto per come riferimento, capito? Però stai andando bene, lascia stare così, poi con lo strumento esterno si migliora qualcosa. Sì, sì, sì. E beh, lì lo puoi lasciare fisso perché non si vede, va bene. Capito? Quando vai al lavoro non si vede, quindi sul microfono non si vede niente. Era giudizio, c'è la lunga antenna, andata la cappotta, usci e fai un coso, la rompi o si rovina. Capito? Devi stare molto attento. Se ne metti una più corta, cosa le fa? Ehi, tanto l'attacco è uguale, non c'è da cambiare niente. Natali, Nara, ah, ok. Signore, i miei saluti. No, arrivi bene oggi, arrivi benissimo, alla grande. Ehi, 1,3 non sono niente, dai, però le attacchi allo strumento esterno e lo provi. Se c'hai magari 1,2 con lo strumento esterno, lasciala così, non la toccare. Va bene, va bene. segnale, sì sì, nella stessa posizione dove ti fermi col camper è leggermente più forte, è più forte, si vede che l'antenna è superiore, dai. E poi al fianco, quindi radia meno, quella essendo sul tetto libera, e io la lascio stare, va bene, va bene. Ci vuole quando si è in movimento, capite? Cosa avete appena fatta? Bello sì, su questa è stato sempre un bel baracchino, alla grande. Come solo che sopra non lo vedi, da. Lo vedi, te l'hai messo nella posizione che lo vedi, lo smitter. Ma praticamente quel ripiano di plastica, anziché metterlo dentro il ripiano, l'hai attaccato sopra con la tappa. Ah, sopra l'hai messo. Come però... Dove ho messo la staffa lì sotto, capito? In modo che ti capita lì, lo puoi togliere. La staffa sotto, in modo che ce l'hai, sollevi gli occhi e ce l'hai a vista. Ho capito, ma non lo vedi. Se uno ti dice l'amo controllo, non lo vedi. Vedi solo la radio, il pomello per cambiare i canali, già lo vedi, sì. Vabbè, aspetta un secondo. Cosa è lì? Sì che stai uscendo. Sono allontanato io. Dove c'è scritto ANL? Dovrebbe essere scritto ANL. Quello è un filtro antirumore. Se tu lasci inserito quello non senti niente. E beh, ANL c'è scritto. Mi lascio stare allora. Aspetta un attimo, mi sto prendendo la roba dall'armadio. E cambia, cambia. Ah, ma vedi ancora come al buio. Vabbè, l'importante sia tutto a posto. Meglio così, meglio così. No, non si è ancora rientrato. Sono le 7. Sono uscito a fare qualche commissione con la mamma. C'è un Natalino che sta facendo delle cosettine. Io sono ancora le 7. Non sento manco Gianni. Nulla. Sicuramente entreranno più tardi. Io alle 7:30 chiudo, vado a portare il cane, poi vediamo dopo. E lì da Gianni ce l'ha la cosa, la PLC 800 Minox, capito, quella corda, è funzionante molto bene, accordate tutto. Mini turbo, cosa vuol dire? Non la conosco, io conosco la PLC 800 Minox, che dovrebbe essere quella, ma non me ne intendo io. Vabbè, cercala, chiedi a qualche camionista. E io a dopo. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? C'è qualcuno su 10? Stasera ne avete voglia, che te ne vuoi dire? E chi? Dove è andato? Però ci sia il telefono Gianni, non sia con il mio, con il mio. Dunque giovanotto, Marco non ho sentito tutta la sera, io sono qua dalle 5, vabbè mi allontano, ritorno, però le radio sono accese, non l'ho sentito per niente. Chi è? Adesso non so che siano più forti. Io mi ho visto, non c'è nessuno, sono andato a portare a Filippo un pochino prima, ma c'è un bel freschetto, sto molto freddo. No, no, ma c'è un ributtino leggero, però si stava meglio ieri sera, non so, vabbè. E stasera fiacca, non c'era nessuno, mi c'è Natalino. Questa è l'altra però, non è il magno, questo è il presidente, così è Natalino. Ah, con la manetta, ho già... il microfono ce l'ho così, non lo toccare. Il microfono non tocca, lascia stare che va benissimo. E tu Massimiliano, a posto? Anche domani lavori? No, domani è negativo. E anch'io, lavoro domenica però, ammazza, mi arrivo a vedo rientro che... Io faccio un casino, per andare a brigare, domani mattina. E anch'io. Devo andare alle poste, andare in banca, devo toccare i documenti. La mia banca è aperta anche sabato mattina, intesa. Poi in commissione dovrò fare un po' di spesa anche perché lei non esce domani, si dedica alle pulizie, di vite stagiere, regalo l'uscita. Ma poche se. Ma io ho un MC5 che porterò. Sì, come metto le chiamo. Non so, ti mando dalla porta di casa, ti faccio affare. E io, così mi dice anche di chi è. Ce l'avevo io. Il microfono suo originale del 780 e l'MC50. Ti ho detto, ce l'avevo. Prima, guarda, che io conosco, mi sono MC50 o MC50. Sì, uguale, preciso identico a quello che avevo io. Preciso identico. E io. Eccomi qua, Gianni doppio Ruth. La brioche, positivo e capparino. Capo di positivo e capo di dosmetro. Ho sentito Gianni, ero al telefono. Gianni? Eia! Era lui allora. È tanto, Gio. È tanto, lui. Manca poco precedentissimo a portare il cane. E stasera chiamate andrà a fuggire, ma quando sei chiamati? Boh, siamo tutta la gira bruciata in occhio, fatto del Natalino. Non si è sentito nessuno, neanche Marco, né Gianni, boh. Se non hai chiamato quando mi sono allontanato. No, io non mi sono chiamato, ma non sta per tutto rispetto. Per niente. Ah, fare un po' di commissione. Ho detto attaccata, io ho combattato a cedere, ma non c'è nessuno. Sono in vetti, non occupato. E mi metto occupato, lui sono sempre provvidente. Non c'è Massimiliano qua. Sì, non so se Torre, quella piccolina ce l'ha per i maiali a voi. mese, infatti l'ho venduta a 30 euro già, l'ho pagata 63 euro. Allora io questa qua ce l'ho la bellezza di 12 anni e praticamente da quando l'ho piazzata era, non si può fare a me lo dite infatti. Appena per appena, si calma, non la stazione di niente, non ho manco tarata, perché non era già tarata la lacca. Sì, no, già vado per quello che mi piace, lo diciamo, non penso in questo. E non la do, la devo solo che cadere, non la do. Va bene, ma anche la pillici 800 io ho, va benissimo lo stesso. Vanno bene come attenta, avanti Claudio. Ce l'ho nuovo, no, io c'avevo la PDC 800, l'avevo data così a Mauro, mi avevo comprato quella tutta nera, quella che ce l'ho ancora, sono anche nata quella lì, funziona da Dio, veramente bene. Infatti mi sa che ripongo la basetta e la gaccia sopra, che c'ho un 58 che è canalizzato, già detto. 58 dell'attacco lì, l'attacco al dacchio per ricevere, così, tanto l'acqua sua voglia riceve bene, alla grande. Gloria, Natalie, cosa? Aspetta, se ti fa vedere in due, tu e Eugenio, non ci ho compreso nulla, dimmi Natalie, aspetta Eugenio, dimmi Eugenio. Ciao Eugenio, buonasera. C'è anche Massimiliano, avanti Massimiliano. Ciao Eugenio, buonasera per l'ascoltato. Ciao Natalia, ciao Massimiliano. Vai, ciao Eugenio. Ho capito, te che ha parlato di altri. Dimmi le cose. Non è tale cosa. Ciao Eugenio. Come mi ascolti io oggi dal piazzale di casa? Io sono in macchina, com'è il segnalino? E allora già va bene. Sto usando una mini flash. Come ti posso dire, uguale, precise retica, stesse prestazioni di tutto, lunghezza come la mini turbo. Nara, che mi dai? Non ce l'ho io la parola. Io ce l'ho la 15800 e no, la cosa me la dovrò prendere anche io, perché con la lunga mi sta rovinando la capota, anche se la capota della mia macchina è molto grossa, però che c'è più lucide attorno, quindi è meglio che la trovo quella. E niente, me la potrei prendere anche io come si fa, non lo so se me la faccio. Comunque può anche la Minox Massimilia, la PSC Minox. Ce l'ho anche quella. E quella va bene davvero, quella cazzo spara. Io penso che ho preso le misure di quella Ferrari, me la voglio costruita io, cazzo spara in due davanti. C'ho anche la Minox della PLC. Eugenio, ma la tua antenna cos'è? Di quelle nuove o di quelle vecchie della 2001? Che colore è? E allora sono via di quelle nuove. Che idea, Eugenio, ma quella che hai fatto vedere a me, quella è nuova. C'è scritto 2001, con molto grande, quella lì è. Ho capito, mica le conosco la penna. È la sigla così, capito? Ma Massimiliano, tu non ce l'hai quella corta, la PLC, come si chiama? La mini turbo non ce l'hai. La mini flash si chiama, però la mini turbo quella c'hai tu, no? Uguale, se te lo sto dicendo, la mia è una flash, capito? È precisa, identica alla mini turbo. Stessa bobina, stessa prestazione, stessa potenza, stessa lunghezza, uguale, precisa, identica. E allora Eugenio, ce l'ha lui, perché non fate cambio? Perché quella di Eugenio non è il modello vecchio, perché il modello vecchio della 2001, turbo, bianca, non la facevano. Era solo una brucola. Cosa? Già? Era brucola che c'era prima, quando l'ho presa io c'era solo blu. E infatti prima ne facevano solo blu, e si desidera. Aspetta. Comunque, dopo abbiamo fatto tutte colorate, gialle, rosse, tutti i colori delle macchine, ma diciamo che quella blu è la migliore. Sì, ma cambia l'attacco Massimiliano, ma è uguale. No, lui che si intende tu, no? Tu che ti stai confondendo, lascia perdere tu. Allora, intanto ti spiego una cosa. La 2001 ci ma quella non la trovo mai. Che differenza c'è, Massimiliano? È piccolina, sarà 60-70 centimetri, ma c'è una ricezione che sta molto... 45? Sì, o 45 che sia. Io adesso sono nel piazzale di casa, con l'antenna quella mini flash a calamita. Cosa, oggi? Preciso, io sgancio quella, sgancio la 2001 e la stessa cosa, lo stesso mondo. La proprio ce la, ci organizziamo, ci abbiamo il telefono, non c'è problema. Quando vai che sgancia una e fate il cambio, mi giuro le burri stazionali e vedi, chiedo di tu come te. Sono dove li misurate questi 1-3, ma lascia perdere uno, faccio degli apparati. Cappa pacca, va bene, va bene. Allora guarda, sono ordinato uno smettino 10 watt, 100 watt, sono ordinato Daniele Modici 80. L'ha pagato 16 euro spedito. Ma per la macchina? Oh no, non lo sapevo, Claudio. Arrivavo dall'Irlanda. Sì, ma detto per la macchina o per casa? Oh, lo smetto per casa. Ma 10 volte 100 volte. No, ma io c'ho quello. Per casa ce l'ho. Per la macchina, sto dicendo, per la macchina piccolino. Ci vuole sempre, io ce l'ho piccolino, però è WTF, capito? Piccolo quanto è un pacchetto di sigarette. Non si piglia. Vai a vaccia, cioè, con giù, vai, tata. Allora, va, cazzo, ciao, ciao, Gianni, a domani. Ciao, Gianni, buona serata. Ciao, ciao, ci sentiamo. Abbiamo prete, secondo me. E copriti perché c'è vento freddo. Ma tu, cosa vuoi, freddo, in chivi, chi su buco, tutto intanato, a prototore, cioè che non venire che in montagna, vedo freddo che fai. No, io non so che al nord, io sono a 350 metri a livello del mare, tu sei a 50 metri a livello del mare, capito la differenza? Cazzo, deve andare un'aria fredda da oggi, ok? Poi a greccare lì, da cassetto, ma sai che metti i pigli? Che salgo a casa, almeno che per credo. E via. Cos'è che hai detto? C'è tutta la sera che non si fa sentire, bro. No. È uscito. Cosa, Ege? No, sicuramente non ha troppo a che fare. Non ne aveva voglia oggi di parlare. Bro. Esatto, come ti ho sempre detto. Lo giri a punta in sopra, il connettore, ok? E ti piatti il DM1000, ti prendi il connettore a 4, lo guardi, il numero 1 attacchi il giallo, il numero 2 attacchi, è facilissimo quando c'è tutto scritto, capito? Precase. Vai Massimiliano. Via, chi ci è rimasto proprio? E Eugenio, Gianni è andato via, Natalino non risponde. Va bene, ho ripreso qui da casa. Qui un pochino più alto, sì. Va bene, oggi ho sentito che c'è anche una scatoletta di vita. Va bene, prima la stavo usando, quindi era agganciata, come mi ascoltavi bene. Beh, era agganciata, se non l'ho piantata in casa, perché ha cambiato da qui alla macchina. Ah sì, che fai la fotografia. Se no fai la fotografia a Italiara. Se fai la fotografia? Ah, voto, l'antenna, aspetta. No, vediamo la mandata. Ah, a me è uguale. E di quelle nuove, insomma, giocano per lo stesso. Sì, sì, la basetta è uguale. E infatti sia uguale la basetta, poi bisogna... Già va bene, già va bene. Sono la vernicchia. Intanto tu la usi poco. Quando vai fuori la usi da... Poi la basetta tua è bianca, la mia è nera. No, la basetta è tutta nera. La tenda è nera e grigia. Ah, rosa e grigia, non nera e grigia. Ma ora sono cantata a casa. Ho capito Massimiliano, il moto è grigio e rosso, così è, l'antenna non è in acciaio. L'antenna è in acciaio, però la bobina, la carcassa della bobina, il rivestimento della bobina è rosso e grigio. Non è una foto Eugenio, tanto manco ci vede la bobina davanti alla bisuglia, non ci arrivati. Io ho capito che lo stilo era colorato, gli tubo, magari lo stilo è sempre uguale in acciaio. E il moto, lui ce l'ha bianco, bianco, invece il moto che siete nella tua è grigio e rosso, così è. No, lì, cazzo, l'ho compreso, Claudio. Il moto della mia è nero, l'antenna è rosso e grigio, hai capito? Lo stesso moto della 2001, cioè. Quella che c'è oggi invece, il moto, è bianco, hai capito? Ho capito, il moto però è colorato il tuo, non l'antenna. No, l'antenna è colorata, il moto è nero, il mio. Bianco. L'antenna colorata. Ma lo filo in acciaio. Lo filo in acciaio, rivestimento dove c'è la bobina, sto parlando, Claudio. Vabbè, è morto la bobina, chiamala avanti voi, ho capito. La bobina di Eugenio è bianca, la bobina tua è grigia e è rossa. Ma lo stilo è sempre in acciaio. Certamente che sì. E cazzo, tu mi fai vedere l'antenna, la antenna. Quello è il morto, è quello che rimane attaccato alla macchina. La bobina è il pezzo che dove ci va lo stilo. Lo stilo è in acciaio. Flash. È uguale alla Mini Turbo, precisa identica, anche se chiamassi Mini Turbo, Turbo si chiama Mini Flash, evidentemente la costruisce un'altra casa, però è sempre uguale, precisa identica. Uguale, Claudio, già stesse prestazioni, stesso guadagno, stessa resa, uguale, cambia solo il nome, una è Mini Turbo e questa è Mini Flash. Sì, sì, sì, sì, la conosco, è precisa identica. Uguale, precisa, precisa, non cambiamo la pietra. No, sto dicendo, oggi che colore è il tuo furgone? Allora tu quell'antenna ce la vuoi, se la vernice di bianco e si appunta. Tu non la vedi neanche il moto, non si può mai vedere il moto da sopra una macchina così alta. Caparrogero, raga tu, è arrivata gente qua, io vi saluto, se io voglio lo facendo ti mando una foto. E così te la guardi. Saluto, un abbraccio, ci sentiamo, ciao Claudio, Eugenio, tutti gli ascoltatori, ci sentiamo domani se coincide, buona serata. Dove è il rapporto lì? Vabbè che venna di oggi. Non lo sai, no, che oggi è tutta mecognata, che c'è un zaino. A Gavino? La Lemme la fa. Uguale, oggi uguale, precedente, la Lemme la fa, sì. Ha detto un Gavino, saluta a me, c'è un capo di Bugnetta. No, un capo di Bugnetta viene dopo. Saluta a Miro, ho capito. Ma è... la sorella di Daniela, è quella buona? Sì, quella buona è la sorella di Daniela, quella c'ha le cose grandi. Ah, già, va bene, la saluta ma anche a lì, là. Però a me sta di sempre, la prima è sempre Daniela. Già lo sai, no? Vabbè, tu hai voluto facciamo, avanti, la bimba. A me ha contento anche la vecchietta, no? Certo che sì, la mazza che te ne varia. Ciao Massimo, un abbraccio grande, dai, ci aggiorniamo domani, salutami a tutti. Ciao, baci. Ciao, motopompa, allora siete tutti in letargo stasera, non sentite un cane? No, io sto appena rientrando, ho sistemato con l'antenna, e adesso funziona bene, a posto. È tutto a posto adesso, ho cambiato tutto, ho cambiato il piede, ho cambiato il cavetto di vento, me lo sono immaginato che la marcio, ecco perché non usciva, era senza coso. Io l'ho fatto nuovo e perfetto adesso, 1-1. Io mi sono alzato adesso. Ma che te ne varia la matta, a te a ruvetto, cazzo, boh, ma roba da matti. Ma quando mai uno si è alzato alle 8:10 tutta la sera qua aspettando a te in radio, cazzo? Per carità, cazzo. Guarda, ero con la TV accesa, sotto le coperte, stavo così bene. E ho detto, chi me lo fa fare alzarmi, andare lì, in quella camera fredda? Boh, ero anche preoccupato, gli ho detto, ma lo si è c'era Gianni, Natalino, Eugenio, Massimiliano, entrato, a Centomello. Tutta la sera io, Natalino e bim bum bam. Non sentisci un cane, quindi ancora. Sì, Antonello, va bene, adesso va bene. Sciù, aia. Questo è un brutto greccare, ragazzi, Questo è un brutto greccare. Mi pare come l'altra volta a Calami, sta andando aumentando questo vento, mi pare proprio che salute fulmina a me, è brutto pure, vedrai, perché è vento forte. quello della stavolta, è uguale, era finché era 120. E mi ha girato un trovato un palo, mi ha girato. Speriamo bene che tenga, che ci sono i tiranti, ma... Guarda, non so, non so come fatto a sentire, ma tu vuoi mettere il protettore già greccare dove sei tu, devo andare lasciando la parete. O qua. Tu ce l'hai predicato in due, ma buffone, dici, è forte, è di fianco ed è forte, greccare Antonio, non è maestrale. L'altra volta era maestrale, è un bel forte qua, è oggi. Il doppio di come lo senti tu, guarda. Se ci fosse stato Sandro te l'avrebbe detto. Micidiale qua sopra, che tu giochi a 300 metri di altezza io, dal livello del mare, tu sei a piano zero, tu sei di spiaggia, non può mai toccare dove sei tu oggi, di greccare così forte, non può mai toccare, il maestrale ti può prendere perché ti entra avanti, c'è lo già meglio di me, ma di fianco tu sei coperto lì, sei molto coperto, è un evento allucinante, no? Buffoni. Raffiche forti anche, è un bel greccare questo, Speriamo nuovamente stanotte, a me non me l'ha fatto nulla, già non ho assolutamente da temere niente, però dico, è bruttino, bruttino. Avanti Natali, cosa stavi dicendo? Sì che ti ascolto Natali. Già arrivi bene, Santiago 5-6, forse faceva la cosa anche tu mi batti dei venti. Tu ti sei attaccato, se non ti vinco, mi avevo dimenticato che avevi quello, pensavo che avevi comprato un altro paese. E sta arrivando bene a voglia. Già va bene, Natali, esci forte. Ma adesso tu devi procurarmi un bel linealetto, quando ci avrai la terra sopra il tetto, naturalmente. Quindi, la sua marina, sai come fa, come tirava il vento qua, non ne avevo idea tu, ma allora che mi, di colpo che avesse spostato. Marco. Ehi, Antone, adesso, pensa, sono rimasto stasera bello sdraiato con la TV, guardandomi la TV, ogni tanto magari mi sono pure assopito, chi lo sa, e mi sono alzato adesso. Te devo mangiare, che vita da porco! Il schifo, vai, fai il schifo, le otto e un quarto, per carità. Ah, però già è entrato Gianni, Natalino, non eri solo, tu hai detto che non è entrato nessuno dalla sera, già sono entrati loro. Sì, no, ero qua, ma già c'era sempre Natalino, è entrato Gianni, Massimiliano, già sono entrati un po' tutti. È arrivato? Tutto a posto? La bomba è, arriva un po' forte da sotto che è da sua, Santiago 7, bella radio, bella modulazione, bella. Ah, buono, avete provato tutti i modi di emissione, sì, tanto per prova. No, non abbiamo provato niente, no. In AMV, però arriva molto. Niente oggi. Lo senti fischiare? E tu non mi sei, non mi credi. Raffiche allucinanti ci sono. Per greccare è brutto, di fianco maledetto che. Come governare pure io, ci sono alberi grandi qua, ovvero che stanno picchiando forte. Ma quando abita fuori da Rizzetto qua era una cosa allucinante, c'erano quegli alberi grandi, no? Che erano quasi al livello del terrazzo. Quando era mai stata, era una pazzia. Pigliava, si piegava l'albero e... Ma cosa che mi buttava in terra era l'aliare, cazzo, non c'era verso, ogni volta che arrivava quel vento rimaneva forte, i radiali tutti in terra. Ehi, è arrivata mia figlia, ok, mi vende l'urugano. Sì, oggi è uguale a quella tua, cambia colore, boh, ma non riuscivo a capire, dai. No, va bene. Ma boh, signori, dai, io vi saluto, che qua è pronto la cena, è arrivata mia figlia. Ciao a tutti, a domani, ci sentiamo, ciao. Ciao, a domani, ci sentiamo. Anche a te, comunque, avanti Natalino. Ciao Claudio, buona serata domani, dai. Ciao Claudio. Ciao, ciao a tutti. Ohia. Cosa vita, ma faccio il garage pieno io, roba, ragazzi. Poi siamo questi giorni, faccio un viaggio di mondezza. Ha cominciato a farsi un po' di roba. Marco. Cosa devi. Ah, devi buttare un po' di roba. Deia. Butta, butta. E non andare poi di nuovo a raccogliere roba, però mi. E come faccio a raccogliere la roba? Il nostro tempo è tempo di andare a pisciare, gira e gira. Devo stare in ciumi. Quando una volta arriva mio fratello, devo stare dalle 9 fino al massimo 9:30 di sera, 9:30. Poi salgo qua, mi addormento. In cameretta ci rimane mia nipote qua, capito? Dorme qui, quindi sto facendo le ultime cose che mi sono andate da ripararmi. E basta, una volta sono disponibile a mezzo piedi, la camera cambia totalmente. Prendo mobili nuovi e faccio la camera come c'è dentro. Non si accende il tester. La batteria. Ma quanto la batteria? Magari ti è caduto in terra e si è staccato la batteria da dentro. Apilo. E guarda dove c'è l'attacco delle batterie, sarà da metà un'ora e mezzo, non lo so, con la roffe. Quindi devo fare la cosa mia. No, ciao, ti mette. Siamo pensando per stasera. Se passi a ritirartelo così allora sei tranquillo, perché devo fare posto qua, capito? Quando mi passare me lo dici così, se sei qui lo prendi. Poi che vuoi la direttiva, vieni con un camioncino e te la porti via. Tanto non ne faccio niente io di quell'antenna, te la piatti in campagna. Meglia, ciao, ciao. L'ho appena accesa, era un po' senza accesa, ma adesso è fredda ancora. No, già avete bene a voglia. Sentito a Claudio, mi cazzo, è sceso a portare il piano a me. Ma non parlando di cose, poi da fredda, l'ho appena accesa. Va bene, dai, ti avviso ancora. D'accordo, ok, sì, a dovere, se non c'è problema. Già, non fugo, sono qua. Avanti, Marco. Ehi, ciao, che è entrato Tino, mi pare. Che c'è rimasto, Eugenio? Tu sei rimasto o stai andando via? No, allora è andato via. Avevo capito bene. Beh, sono contento, dai, che abbia trovato un apparecchio nuovo. A un prezzo ottimo. Un nuovo al prezzo di un usato. E quindi per il furgone va più che bene. Ok. Natalino, riprendi, saluta chi è entrato, dai. Ciao. Natalino, che ti ha saltato Tino? Misurala col tester. Ehi, ehi. Sì, neanche il mio tester è grande, è da 9 volt. Nel tester piccolo non lo so, la verità, non l'ho mai aperto. E ogni tanto va cambiata, perché non si accende più, come ha fatto a te. Nuova? E allora, boh. Guarda, io ho preso un tester dai cinesi, l'ho pagato 3,50 euro. Mi pare 3,50 euro. Piccolino, no? Digitale sempre. L'ho confrontato con quello grande che avevo da tanti anni e dava le stesse misure di volt, di ampere, dava le stesse misure, grosso modo, per non dire le stesse. E quindi vanno molto bene, costano pochissimo. Vai Tino. Ho salutato la Natalino, non so se mi ascolta. Ciao Natalino. Prima ti ascoltavo la sua parte, hai fatto delle migliorie. Beh, è quella di Lucca, non l'avete piantata. Fagioli è buona, a me piacciono molto i legumi, lenticchie, tutto mangio dei legumi. Bene, bene. Fai bene, fai bene. Non mi domando come cosa c'è a mangiare, ho fatto un bel po' di spesa e allora me la metto come cosa c'è figlia. La parola facciamo due soldi, 4,50 € alla Copec. Ne pensoni, ma tu stai andando dall'Eurospin di via Carlo Felice o vai sempre solo in via Verona o come si chiama? Non via Verona, come si chiama quella via? Via Verona, via Verona. C'era poco fa l'Eurospin di via Carlo Felice, c'erano quattro casse tutte e quattro aperte, tutto pieno fino all'ollo, fino in fondo. Capita tutto il male di devi fare la fila, invece via Verona entri, capito? E come ti vedo apro immediatamente la cassa in automatico, capito? Quindi di solito vado via Verona io perché mi trovo bene, conoscono e lì mi ripeto gli amici, capito? E poi ci sono anche le cassere che sono buone, cioè, addirittura, quindi mi regalano anche roba, mi regalano. Ehi, va sempre a recupero, capito? Si fa regalare gli avanzi lì, la roba non venduta, gliela danno. Capito gli avanzi? L'altra volta mi eravate un pacco, una busta piena di favole, non me lo sono neanche accorto. Siamo partiti io giovani agli attesi e mi sentivo strano, questa sonorenza, YouTube, al ritorno la stessa cosa. Allora chiamo la macchina qua sotto, che non mi accorgiamo le favole dietro, immediatamente si è... ci ho messo fuori in terrazzo, fuori la sera sono andato a Nico e ho detto Tenico, come invece sei a cosa in pizzeria, Tenico magna di tu che mi ammazzende, mi piglio due bide e me ne stanno a casa. Ma perché tu fave non ne mangiavi prima? Non hai mai mangiato le fave? Prima ne mangiavo parecchie fave, di tu le piantavo pure, ho trovato in campagna, adesso non ce ne sono a fare, tu mi fanno male. Quando mi sento delle cose mi fa male, mi sento tutto suonato, strano, come si fa il sintomo se tu fossi per dire hai bevuto un bel di roba, il giorno prima i sintomi di ubriachezza ti danno a me. Antonello mangia il pene. Aspetta, quello di si è parlato, che tu sei andato a tante gente buffelli parlato. Aspetta, va, che cos'è stato lì? Non sono io, Giovanni, cioè io non mi sono accorto magari adesso, ma Giovanni l'ho detto proprio Giovanni Fabbica, anche Alicia, Giancarlo, io le favole con Giampiero, mi sa quante volte le facevamo fredde, adesso mi fa quell'effetto uno, non so perché, come la vecchiaia, non adesso risolvo io, avanti a te lo giusti. Buonasera, ma cale fate, che lo stesso che ti piace a te con poco. Ma vado, già lo so cosa mi piace a me, ma quello non mi fa male, quello fa bene al cuore, già lo sai, ho passato ogni tanto, di conchito. No, che quello fa male al sedere, comunque buonasera a tutti, aspetta il telefono qua, secondo, voilà, buonasera a tutti, Marco, e quell'altro non capisco chi era. Ma scusami Natalì, buonasera e ben sentito. Ciao Antonè, dopo tanto, ben sentito dopo tanto, c'è anche Tino all'ascolto, Tino da... dov'è la zona, non mi ricordo. Antonè, il destino è beffardo, ho trovato in un punto... totalmente nascosto della casa è comparsa una cosa nera e rettangolare. Una cosa nera e rettangolare? E cosa potrebbe essere? L'antenna che è diverso del Tech-Tool? No, ho ritrovato in un punto assurdo, impensabile, ho ritrovato, come si chiama, il transverter, quello che avevamo dato per buttato. Era stato messo così, senza pensarci, in un punto... inusuale, quindi vabbè, ormai non ti serve più, però c'è il transverter, non trasmette ma riceve bene al baracchino. Perché no? Si può fare il scambio con qualcosa, fa anche a te. Oh, scambio no, quello si regala, quello non si vende, non si scambia ma si regala. Non trasmette, quindi è come fosse non funzionante. A ricevere, caspita se riceve. Con l'antenna apposita, proprio taratta, per la banda giusta, avevo fatto anche di video con lo smartphone. Riceve anche bene. Certo, rispetto al Texun è una seccatura stare a girare i canali, a centrare col clarifier, però c'è e funziona, funziona ricezione, ecco. E perfetto, vai, quando vuoi, ci siamo gli amici. No, giustamente, la mia assenza per il lavoro, perché ero quasi sempre lì, a casa un po', c'è una cosa e l'altra, poi... quando si andava a lavorare, perché il lavoro non è il massimo, poi la maggior parte è sempre acceso a casa, sempre, ti ascolto sempre, per carità, faccio altre faccende più importanti, dunque la mia assenza era per quello. Tutto dico, comunque vi ascolto sempre, non vi lascio mai da soli, la verità. Ehi. Va bene, dai, già ci vediamo poi per questo trasverter. Bello se avesse funzionato anche in 40-45 trasmissione, perché fa tutto 40-45 metri, quindi purtroppo non è stato possibile aggiustarlo, diciamola così, dai. Però se ci fosse qualcuno di buona volontà che lo mette a posto, quello funzionerebbe anche in trasmissione. Non so se siano i finali, non lo so. Ci vogliono i due SC1969 su quello, originali. Oppure qualcosa di equivalente da tarare, insomma. Capito? Sicuramente lì... secondo me sono i finali, boh. E vabbè... quando la roba è vecchia di 20 anni o 30 anni è ovvio che qualcosa può non andare. Va bene, riprendi Antonio. Già, ma poi se ti viene bene, rimani una foto così, per poter avere curiosità di come è fatto questa apparecchiatura, mi fai una foto, me la fai su WhatsApp, così me lo guardo, vai. Ma se ti viene bene, volentieri, così me la guardi. Ehi, anch'io non mi ricordo bene come è fatto, aspetta, un attimo io lo prendo, dai, riprendete voi, poi i pomponi. Ho visto quel trasverte, ci vuole molto ripararlo, perché ci vuole questo grande tacchi vecchi, ci metti lui, ma è una pizzeria, è il mio 1969, sono con Marco. Allora, sono una pizzeria, mi interessava magari che un qualche relay, qualcosa del genere. Non subito, non costa niente per farlo. Io ero uno di quelli, però sono quelli di Fusaro, te lo sto già dicendo, li avevo messi nel presidente Jackson e sono stato alla Valamica per una settimana, cosa cavolo, e invece i finali cinesi che sono andati. Una su 200.000 funziona di quei finali lì. C'è un lavoro loco. Vabbè, al limite se mi ho tirato meno, ho fatto un taglio, lo so, 15 euro, costano quei 19,69 da internet. Se mi ordina e poi passo a attaccare il 15 e metteci nuovi. Non costa niente, basta qua due minuti, dopo tre finali gli saldo e fa la prova. E la trasmissione. Attualmente ci vuole l'antenna sua, si fa un bipolo, 10 metri e 20 per parte e va in 40-45 in trasmissione. Vabbè, vediamo un po' come sono, dai. No, io la verità, un mesetto fa, non è la discarica, tanto stavo portando il cartone, c'era questo signore che aveva un sacco di apparecchiature di questo. Il prezzo mi ha stato appuntato un contropompo della AIGA ARD 30, che deve giustamente cambiare l'antenna di registra, il motore mi ha dato e più un altro regolatore d'antenna. grazie e tutti con le buone condizioni. Il motore sembra nuovo, bello strutturato, eh. E me lo portate a casa, anche se da qualcuno. Cosa so? Io ho la, il motore per la parabola, sto usando io per la direttiva. L'unica cosa che mi manca è il, come si chiama, l'alimentatorino, quello per girare destra a sinistra, della selezione, c'ho la scatola, c'ho tutta la direttiva, quello diciamo si crepa, col motore che c'ho io, è fatto veramente bene. Antonio, dimmi di... Aspetta, che motore è? Perché aspetta un po' di roba, sono un po' basso il bar, perché sono complicato, non mi risponde, tu, la sopra non conoscendo. È il motore? Aspetta, segniamo il motore. Io penso che gli ha baciato tutto, sì. Marco! Tanto perché molto bene ti ha chiesto Tino. A me lo sta chiedendo, guarda, non lo so, se vuoi ti mando la foto e te lo guardi, se in macchina lo prendo, ti faccio la foto e te lo scrivo su WhatsApp. Poi mi ha dato un'altra apparecchiatura, non so che diavolo sia, guarda, io non l'ho mai visto in vita mia, che si chiama Grid Heat Meter, e c'è un regolatore multiverse scale, funziona con una batteria da 9 volt, un po' particolare, ma apparecchiature mai viste in vita mia, in ottime condizioni, fatte in Giappone. Se vuole, sento, gli faccio la foto e gliela inserisco. È nuovo il motore, nuovo. Il Deep Meter. Trattino Deep Meter. Amtrop. Non c'è Amtrop la marca, ma è, ha un sacco di pulsanti, non capisco che diavolo serva. Allora, il Deep Meter serviva a trovare il punto di risonanza, la frequenza di risonanza di un'antenna, quando non esistevano ancora gli analizzatori d'antenna. Deep Meter, praticamente quando avevi una scala rotante, in quelli meccanici, come trovavi la frequenza di risonanza, produceva un guizzo, un beep proprio, un dito, un suono, e da lì il nome Deep Meter. Ah ecco, no, poi c'è la scala con i paracini di questa generazione, no, con l'indicatore da 1 a 6, con un regolatore che si sottentiva, oscillatore, ne ha poche di quelle cantative, sì, e poi c'è una scala che devi cercare a mano, ma in ottime condizioni, che parte da 150, poi diversi numeri, è molto particolare, ma è difficile. Stanno buttando anche questo, me l'ho preso, in ottime condizioni. Forse ho capito qual è. C'è un ingresso e un'uscita. Ciao, ragazzi, il cavo della terra c'è un filtro, c'è così, è pure una manopola, è nel nero. Quello si usa per in pratica quando fai il puntamento della parabola, hai capito? E devi cercare il massimo segnale. Dopodiché una volta che quello va in pratica cacciato al ricevitore digitale, satellitare, da darci lì, una volta che hai piato il satellite si mette a fischiare, hai capito? No, non è dire, Antonè, il Deep Meter, ricordati 30 anni fa, c'erano anche sul catalogo Intec, non te li ricordi, hanno una scala graduata e appena trovi la frequenza di risonanza di un'antenna fa un guizzo, un bip, un rumore. E anche grande, guarda, sulla giornata polverato, tutto lì. La carina, ma che diavolo sarà prima poi chiedo. Comunque se voi vado, fatto la foto, prendo il motore, fatto la foto, se dite voi che è un buon motore, non lo so, è abbastanza grosso. mandami la foto su WhatsApp, me lo mandi, tanto già c'è il numero. Sono curioso di sapere cosa è il servizio di mettere il motore con control box. Se va bene per la direttiva, la TIN ha fatto 13, io la direttiva ce l'ho. L'ho fatto che mettere la direttiva, quella che ho io in quel motore, con control box è a posto. Tanto io mica la direttiva le porto io alla garage, perché non ci fa nulla. Quindi, a me conto, a me di tua usi, Antonetto, fa quello che vuoi. È grande avere la direttiva, gli usare, quindi, è preso al muro. Media, basso e basso. Comunque mi sento scendo giù e prendo il motore. Sì a Marco che a te, poi se lo vuole faccio le foto. Comunque questo Aiga RD3000G è veramente carino fisicamente, poi guarda, sembra, è impressionante da quanto pesa, sembra un mattone di ferro. È veramente carino, ecco, come strutturato, molto molto pesante, poi si vede che serve per direzionare l'antenna, molto molto bello. Quindi potrebbe anche il non lo so se anche questo qui non si le condizioni, comunque a te, vedo due macchine a prendere il motore e ti dico le foto, poi mi dai su il tuo giudizio. Sì, poi l'ho già mandato a tiro, tanto il numero di titolo mi sembra che ce l'ho io su WhatsApp e la faccio vedere al gruppo. Va bene, non c'è problema. Tino, metti 10 watt, anzi 15 watt di potenza, poi le abbassa per la pena, come si chiama, così ci metti. No, non c'è stanza solare però. Adesso va bene. Antonio, comunque sono una firma. Infatti ci ho pensato con la sua sfaccendo lista, perché secondo me non lo vorrei perfetto. Ma così non è. La conta con la firma non serve. Dovevo ricambiare, proprio già il tratto. Ah, Pantini, come ti ha provato a te, non stai volando nulla, sempre per la cosa che fai. Metti cavo di letto e basta. Siccome l'avevo un dittore così per l'ascolto, l'ho trattato. Ma non è, ma non è una foto contro la tua, vediamo cos'è. Se manda la foto, sì. Antonello, dico la roba che c'è, poi te la mando a te. Io, vabbè, che provo a risolvere questo problema, stacco, stacco un po' il tutto. D'accordo, d'accordo. Ma qui c'è un sound converter. DC 145 900 MHz, in pratica fa, era Intec, attacca a barchino da 27 ascolti, tramite il barchino, fate da 145 a 900, si deve centrare con lo shipping del barchino, in FM naturalmente. Adesso va bene. Ma non è un appartamento, non è un po' siccome qua erano produttori tutti qui, ogni tanto si tocca una cosa, sia le LC che le chirine, quando fa. Va bene. D'accordo. Stavo toccato lo schermo, l'abbiamo visto con la sigaretta. La tavola ce l'avevo in mano, quella con le mie. Tutto toccato, mamma mia, se trovavo a mettere il coso. Mi è arrivata una foto. Aspetta che la guardo, poi te la mando. Ma quello è mio o quello di Brito? No, lineare no, già ho detto che è quello di Bacchisio. Finito c'è il 2001, io lo so. Popò, guarda che ti ho spedito le foto. A Pomponio, perché il tuo numero non ce l'ho. Va bene, volevo dire a te se ci mi ascoltate, dai. Santiago quasi no per Radio Superfix qua. Va bene, allora faccio vediamo il punto e vediamo cosa è, se non arrivo, perché è mezzo rimambito andando a ferire. Mezzo di quello che vuoi dire? Aspetta che ce ne sono 5 di così, aspetta. Ti ho fatto diversi angoli del motore, ma guarda, è nuovo, è nuovissimo, ma che bello, un metallo abbastanza molto ci sarà tutto, non so, aspetta che lo prendo in mano. se sia stato mai usato, cosa ne so, non c'ha, è in perfette condizioni, non c'ha nessuna ruggine, sai, osso, nulla, è nuovo nuovo, nuovo nuovo. Tipo, qua la verità, qua la marca sinceramente non c'è scritto da nessuna parte, infatti lo sto guardando, nulla. Poi c'è una piccola scatola in plastica dove si è dentro, sto sfruttando, ecco, ma ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5 piccoli connettori per collegare dei cavi, però marca non è scritto da nessuna parte. Sto controllando la verità, proprio marca niente, mi giuro da nessuna parte, nulla, nulla, non lo sto controllando, ma si vede che non è stato mai usato, no, no, non c'è nessuna parte, niente da nessuna parte, c'è anche i tiranti per attaccare al tubo, con il volo di originale, no, no, non c'è nessuna marca, nulla. Leggendario transverter LB1 della Electronic Systems, questo è di 30 anni fa, e c'ha quindi off oppure 40-45 metri, è un interruttore quello, poi c'hai una RX gain che serve come l'RF gain per attenuare se serve, poi il clarifier che ha un range molto molto vasto, un range molto vasto, capito? Guarda, se avesse trasmesso sarebbe stata una grande cosa, anche se avrebbe avuto solo un 15 watt, 20, invece non trasmette, purtroppo ci vuole una persona di buona volontà con strumentazione, che controlli finali, il pilota, non lo so, non me ne intendo io, in modo da averlo funzionante. Io purtroppo tempo fa avevo visto in vendita dei veri finali 2SC1969, li vendevano in gruppo o da 3 o da 4 o da 2, non mi ricordo, proprio veri 2SC1969, non quelli ridicoli che trovi in giro, che è proprio una truffa. Io non li ho voluti comprare perché i miei baracchini hanno finali MOSFET più moderni, quindi ho detto se li compro me li attacco, non li uso io per i miei baracchini. Vabbè, un cartone è quello e dai, c'è un ingresso e un'uscita. E perfetto, vediamo un po', non ce ne mettiamo, quando vuoi, ve lo dico e fatto. Vediamo un po' come, dai, sono curioso. E beh, Pompo, siamo andati un altro rapporto, lì se le hai. Sì, io l'ho visto, l'ho visto. Aspetta, sto cercando il cosmettino. Perché mi stanno aspettando a Parvola. Allora, eccolo qua, grid deep meter, diciamo che è ancora più antico di quanto mi immaginassi, perché i deep meter che ho conosciuto io erano degli apparecchietti che stavano in una mano, che avevano proprio una scala graduata tonda e tu la ruotavi, ma questo è la stessa cosa, dai, solo che di due secoli fa questo. La marca è Amtron, me la ricordo questa marca. E poi l'altro, vediamo cosa è. Ami, adesso si vede meglio, aspetta, devo mollare la portante, dai. E vabbè, adesso è più luminosa, ma è mossa, molto mossa. Non vedo le scale graduate, però vedo che c'è a destra una specie di manopola. Sicuramente giri quella e giri la frequenza. Sotto c'è un indicatore, forse che sale a manetta quando trovi proprio, diciamo, il segnale. Poi send, non lo capisco, non leggo le scritte, dai. Poi cos'altro c'è qua? Ma riprenditi. No, adesso si è fatto un rapporto un pochettino critica, questo telefono non è fatto. Mica che vento! Adesso è arrivato me. Eccolo qua, allora, illuminiamo bene, grid di premettere, frequenze, vedi? In alto c'è la frequenza, con quella manopola che c'è di lato. Poi c'è questo indicatore, questa specie di smitterino, poi sensitivity, sensibilità regolabile, OSC, sarà oscillatore, poi c'è un selettore deep battery, deep bat, insomma, per vedere, poi c'è on off, sì, aspetta quanto è vecchio questo. È roba da museo questa, minchia, altro che 30 anni fa, questo è 40 anni fa. E questo, guarda, sicuramente funzionasse, lo stava buttando, dai, a me che prendo io. Va bene anche come collezione, sicuramente funziona, sarebbe bello anche provarlo e sperimentarlo un po' in questa radio. E poi hai detto che è carino che quello AIGA RT3005, guarda, pesa, è una cosa incredibile, sembra piccolo ma non lo è, pesa veramente tanto, quello per dove sta la scala nord, sud, est, ovest, illumina tutto, funziona, cosa ne pensi? Molto carino, e questo fatto in Giappone. Quello è un control box, control box, rotazione, vedi, destra e sinistra, poi c'è al centro una spia rossa che indica la rotazione massima quando sei arrivato al fondo scala, power, sì, e poi c'è anche un rotore, o sbaglio, sembra una specie di motorino infatti, o cos'è? Questo affare in metallo. Sì, un rotore d'antenna, cioè, un rotore, proprio il motore dove gira il tubo e lui gira nella posizione che gira. Sì, un rotore. Guarda, è diverso da tutti i rotori che ho visto, perché i rotori bene o male moderni anche di 20 anni fa avevano forma ben precisa, questo è proprio una cosa strana. Forse roba proprio, non dico vecchia, ma proprio antica, antica. Tu lo sai cos'è? Che all'epoca, tanto si sta benissimo, quando coltivano qualcosa era per durare una vita e non come adesso in leggenda. Sì, è abbastanza particolare, la verità, non l'ho mai visto neanche io. Dunque ho preso e ho iniziato a raccattare, dai, a me che già è dovuto ancora gli apparati, e anche da ragazzino, dice, una persona abbastanza lunga, stava buttando quanto c'era. E tra la montezza c'erano queste apparecchiature, e ripeto, per età che li hanno, perché si vede che è proprio vecchia data, sono, guarda, ti garantisco, in ottime condizioni, veramente, trattato con i guanti, veramente, e non pensa così che dalla stazione, per avvertire un po', visto che ho fatto anche l'altra foto. Comunque, se funziona il rotore, se funziona anche il control box, fatelo in soldi. Ah, ecco un deep meter come dico io, ecco, ho delle foto di deep meter MFJ come li conoscevo io, a Isetta. Un attimo. attimo che mi scelgo una foto. Pompone, riprendi. Sì, non riprendi. Oh, Marco, hanno salutato, forse non abbiamo niente a fare carica batteria. Poi Pompone ci dovrebbe essere. Mi sono incasinato e ne ho superato il telefono. Ora siamo per fare da corso da vissi. Dunque le foto ce l'ho, quindi ora siamo per il telefono. Antonio, se vuoi un telefono onesto, onesto, ma che funzioni bene, prenditi questi Huawei. Io ne ho due addirittura, uno meglio dell'altro. Certo, non fanno le solite cose normali, ti permette di navigare, scaricare posta, di usare tutti i programmi Android, cioè non ti devi spendere 600 euro o di più per un iPhone, che poi fa le stesse cose. Solo che c'è il display, cazzo, OLED, esamina tutti a me. Sì, ma io il telefono semplice, non è che sia, insomma, la che è questo è 8+1, quello della Lumia, insomma, capito? Della Microsoft, già un secolo lancio, che fa tutto che va computer. Aspetta, vedi il telefono? Sì, gli hanno visto, l'ho visto. Ecco, quello che si vede che dovrebbe essere un motore per antenne direttive, giusto? Per come è strutturato. Non mi sembra motore anche la direttiva, comunque la verità sì. Non è un altro motore, quello è, per me mi sembra il motore di una parabola invece, di quelle parabole che si usavano una volta. E in pratica girava e saliva il tubo. Dava l'inclinazione, hai capito? Ma scusa per la mia ignoranza, per come è strutturato, no? C'ha un tubo interno, diciamo, diciamolo come un tubo interno dove gira, tutto lì. Proprio in un giro circolare, ecco. Sì, hai già capito. Vabbè, poi già io lo guardiamo continuo, che faccio vedere. Per me non è il motore di parabola comunque. È troppo piccolo per essere motore di parabola, di parabola, di cosa? Di direttiva. Era stazione vista? E la stazione l'ho vista. Che lato mi sono? Dopo anni e anni e anni. Se ne c'è un frusaglia, no? No, non c'è un frusaglia, già va bene, guarda che... Anch'io non è che c'è tanta roba, che sta bene, mi va bene quando ciò che ho per il momento. Poi in seguito se ho soldi e ne ho voglia di comprare qualcosa me la prendo. Ma manco io ho certo di ieri. Sono pensato mi affidiamo un qualche banda, se no qualche altra cosa, adesso vediamo un po'. Per un cazzo c'è un terreno a prendere un HF, poi mi devo pigliare un po' HF in stazione base, poi uno HF in stazione base, eccetera, eccetera. 50 cose, non mi posso unire. Allora mi sono una cosa che faccia tutto, se va via in culo, per non avere 50 cose in mezzo ai piedi. Anche perché poi cosa fai? Le metterei in esposizione qui, in camera, magari ne uso una volta di tanto. Adesso mi sto facendo girare il tribunale 9 di Giovanna, che era sempre la fai con tempo. E stavano bene. E invece con il squadrovina, l'altro giorno mi ha fatto il difetto che come se avesse l'antenna l'uscita del PL in corso. Adesso questi giorni lo controllo, come mi interessa sistemare adesso questo palazzino di Tonino oggi vicino di me la mezzo i piedi, volevo sistemare quel lineare di coso, di finire il lineare di Benizio, vogliamo fuori anche quello, e poi sono tranquillo, poi al limite mi farò il laboratorio di giù, farò non so, voglio fare più niente in cameretta, anche perché devo lasciare la finestra la pizza sollevata per appena per poter passare il cavino le balle piene ogni volta quando c'è freddo, cioè quando c'è vento mi entra l'aria fredda e mi congela in questa cameretta. Marco, mi è arrivata la foto, questo veramente, sì, meno male hanno la stessa struttura e si vede questi sono degli anni 3, questo. Anche questa qua monta una bottiglia da 9 volt. Sì, hai notato la forma? È un corpo centrale con una scala dove ci sono le frequenze. Tu le vedi quelle cosettine che ci sono in basso con due piedine in nesto? Quelle erano le bobine di risonanza del deep meter, cioè una bobina va, che ne so, da 1 a 30, l'altra va da 30 ai 60, cioè ogni bobina ha un range di frequenza preciso, capito? E lì appena beccavi la risonanza dell'antenna vedevi lo sbitterino che andava a manetta e sentivi probabilmente anche un bip, una specie di guizzo fa, capito? Anzi, forse è solo lo smitter, vedevi, il guizzo mi sarebbe, lì può dire guizzo o roba del genere. Sì, ma non è quello, no. Vabbè, quello dico, non è quella foto che mi hai mandato tu, quello che ci ha tolto, è assolutamente una cosa diversa, ma... No, Antonello, Pomponio, guarda le foto che ti ho mandato adesso. Questi che ti ho mandato con la rotella tonda sono deep meter, veri e propri deep meter, degli anni 80. Sì, ma non è così quello che mi ha mandato Antonello, può fare, è totalmente diverso. Sì, invece, c'è lo stesso una lancetta, uno smitterino, e c'è lo stesso una banda di frequenze sopra. C'è una rotella per regolare la frequenza, la stessa cosa è, capito? E poi deep meter, quello è Antonello, le conosco. Popo, dimmi. Nelle foto che mi ha dato Marco sono una struttura diversa, però alla fine ha ragione, sì, sono uguali, anch'io c'ho una scala, e poi lo hai vedere dentro come fa, perché è un condensatore variabile, e in questa scala ci sono diversi numeri, frequenze, sono diverse frequenze ci sono. Sulle ruote loro si muovono tranquillamente, c'è lo stesso funzionamento, c'è funzione, come sta dicendo Marco. Poi in alto c'è uno spinotto con tre punti, con tre punti, diciamo, c'è uno spinotto con tre punti, e sicuramente si attaccherà qualcosa, non so. Ah, guarda, quello a sinistra ha anche la sensibilità regolabile, c'è una scritta sensitivity, vedi, è la stessa cosa. Praticamente si attacca un'antenna sopra, mi pare che si attacchi un'antenna sopra, di bocchettone TL, e da lì vedi la risonanza esatta di un'antenna che non sai dove risuona, capito? Sì, sicuramente sarà anche quello funzionante, secondo me. Antonello non ne sa niente altro che fare radioamatore. Antonello, se non conosci deep meter, a posto sì. Pomponio può fare il finocchio, può fare. Sì, quello è poco ma sicuro, Queste marche non le conosco però. Questi deep meter sono marcati Leader. Io me li ricordo marca tipo Kenpro. Guarda, ce l'aveva anche la Intec sul catalogo dell'85, me lo ricordo chiaramente, vendeva anche queste cose. Ormai il deep meter non si usa più perché esistono gli analizzatori d'antenna, che proprio tu li attacchi l'antenna e ti fanno vedere tutto, anche la curva del ROS, l'impedenza, la reattanza, come si chiama, tutto fanno vedere, tutto, ti dicono tutto di un'antenna. E quello si chiama tecnologia, ma alla fine per buttarlo in discarica almeno, dai, quindi come spesso la collezione era passione, sarebbe anche un peccato non buttarlo, con che cosa alla fine. Pomponio, non risponde. Devo dire a Marco, se ce l'ha fatto, se ce l'ha fatto, se sono libero, viene bene, domenica, sera, ti do un colpo di colpo di tempo, se te lo però vengo a prenderlo. Sì, sì. Guarda, noi domenica, se è bel tempo di pomeriggio, andiamo a Latamona, nel primo pomeriggio, e poi torniamo a casa a metà serata, penso che alle 6 saremo già a casa, 5:30. Beh, dai, ti do un colpo di telefono, vediamo. Sei coincidente, Agostino, dai, mi devo lasciare che me lo chiamate pronto. Io lo sto attento, se mi avete punti e ci sono dopo, se sto bene. Un corpo di balla con catediale. Prima punto di atterraggio con voi, poi ne parliamo. Qua ringrazio, che non ti ho sentito, solo che sei venuto il giorno che c'era la festa, sapete, buffet che c'era Giancarlo, certo. Cioè, salito su, ci siamo ubriacati al Vidoc. E bravo, sì, il mio telefono ce l'hai, io ero giù con voi, avete chiamato e ci sarebbe contratto. Non costa niente un po' di telefono. Sì, vabbè, io pensavo stavi lavorando, capito? Ecco perché non ti ho chiamato, non si crea. Come ho sentito la macchina, è arrivato mu, e detto che stava lavorando, non già ti chiamavo a fare. Questa va anche lo spesso. E poi al limite ci vediamo pure. Basta che se non c'è nulla da fare, questi giorni qui, mi fai uno squillo, e ci vediamo qua e ci facciamo un coso, un drawing che ci facciamo. Vabbè, la cosa non costa fare niente, no, sto fatto se non lavoro, sto fatto se non sei a casa, non sto fare niente col telefono e saremmo incontrati, perché no, mi saremmo chiamati a fare, non ti voleva venire, saremmo stati tutti lì tranquilli, ci saremmo divertiti, dai, alla prossima allora, ti vado a fare carica batteria, se ci siete, lo lascio acceso sul sito, dai, buon proseguimento. L'hai visto l'ultimo arrivo, Antonello? Sì, guarda che sta arrivando un'altra foto anche. Sì, adesso prendo il telefono e guardo. Io non ho capito cosa hai detto. Eri in mezzo. Ah, basta le voci in telefono. Ui, ui. Tu sì che te ne freghi, io. Uia, mi metto. A parte la storia, sì. Lento, lento, non più questo. Beato te, io avevo questo, crocro. Mi sa che stavolta mi si è girato dall'antenna. Hai sbagliato veramente del male, lo so, vento. Oppure per il vento vado già dalla parte del corso. Dalla cimiteria, sarà cosa allucinante. Ma forte, mi. La via dentro va pigliata, boh. Sì, perché il mese scorso mi ha girato il palo tutto, mi ha girato, se non ho trovato la direttiva puntata ai cili, figurati tu. E allora dice mi sentivo questo fischio, ma forte. Quando c'era il tiro mi vedo anche la puntata da quella parte, immediatamente ho agganciato il motore girato dalla parte opposta per fare meno casino, e dice no guai, io pensavo che partiva il palo in terra. Sì, che mi vicino del fuoco, così cazzo mi è stata, non mi sembra vero che a poco lui non attaccava di tutto, non saranno. Sequestrano tutto Antonello. Sì, va. Vediamo che mi adesso lo dico a cosa, in questi giorni a Lucca, facevo io a Lucca, faccio fare due buchi, piatto le staffe nuove a muro, non mi interessa nulla. A me sono più tranquillo, non mi sogni tranquilli, e palo lascio basso, non me ne affutti nulla. A tappato ci metto le antenne, ci metto. Antonello è chiuso? E gli ha detto mi prenderò a Antonello. Lei ha. Ok, oh, sono le 9:20, ciao Elio. Non so nemmeno se c'è un film decente oggi, ma mi sa di no, avevo guardato il giornale e non c'era niente di che, niente che mi attirasse. Vabbè, ce ne siamo al baracchino allora, fino alle 4 di notte. Perché alle 4 di notte? Non saranno. Aspetta che bel vento che c'è. Rubando i croccantini il gatto, guardalo. Ci sei Clementina, ci sei. Così rimaniamo fino alle 4 del mattino, ci sei Clementina. Ai Paola Conconi. Ma cazzo, su Facebook, ma sai che non c'è su Facebook? Ho controllato, non c'è, cazzo, allucinante. Non è ancora qui, ancora chi io quel cognome, io ridu. Non l'ho più né vista né sentita, ma lei ce l'ha fatto acceso a casa sua, ci sta ascoltando, fa di avere il corpo, non la prima dell'ultima è la verità. E dove hai detto che non è Paola, te la provo a cercare, eh? E però come faccio a riconoscerla, Antonè? Su Facebook, su LinkedIn, su WhatsApp, beh, sarà su qualche social network o no? Un corso da studio non c'è, no, guarda che la bionda con gli occhialisti, quindi me la ricordo ancora. la povera Fabiana, vabbè, quella Pintus si chiama, quella parlava anch'io, ma vicino, neanche quella c'è, fa la parrucchiera, poi chi c'era lì, Luciana la figlia di Mustafa, non mi ricordo come si chiama il cognome. E purtroppo io sto cercando sulle immagini di Google, ho messo anche Sassari, ma no, non risulta, questo nome non risulta, non c'è Bioda con gli occhi chiari. Poi adesso sono passati anche 30 anni, ormai sarà diventata nonna, figurati. No, non lo credo, ma sarà senz'altro, forse sì, c'hai ragione tu, perché all'epoca c'aveva, ero 20 qualche cosa, aveva 18, non so, mi ricordo male, perché era ancora a scuola, dopodiché aveva fatto le cose di professoressa e era entrata lì all'industria del lavoro, mi ricordo che lavoro industriale in elettronica, una cosa del genere. Quindi insegnante, così è? Sì, è insegnante di all'industriale. Senti, ti posso chiedere io a Mario Cao, che lui è lì alla stessa identica cosa, è professore di all'industriale anche lui. Lui posso chiedere? Aspetta che sto guardando organigramma, decimo circolo Sassari. Un nome, ATA, personale ATA, ma riguarda anche gli insegnanti? Allora, ATA sono, fa cuffia, birelli, tecnici per usare il computer, e la parola lo fa in tutto con la macchina da sera, tanti. Poi pulizia e cosa del genere, lì devi fare la domanda tu, c'è il centrale. Però devi avere il foglio ISE, il discorso è che devi fare il foglio ISE, la domanda c'è il foglio ISE, allora fa la domanda. In pratica c'è il concorso per A, B e C, se vuoi colorare. Aspettami. No, perché ho visto una Paola Assunta Conconi, figura un nome, ma non so se c'entra qualcuno, aspetta che la cerco, trova nella pagina, aspetta. Dove sarebbe? Vediamo, gestione protocollo personale ATA, Paola Assunta Conconi, no, non lo so se è lì, e comunque di foto non ce n'è, ce n'è una che ha lo stesso nome ma è nera, di capelli, c'ha un po' nasino un po' pronunciato. Io che ce l'avevo già visti, se c'è gli occhi ce l'avevo, ma lei c'è anche dei capelli interessanti. No, ma questa è un po' racchietta, non è tanto bella. E poi lavora in Belgio. No, non lo so. E ormai te la devi dimenticare, Pomponio. Sì, dai, devo parlare di 20 anni, ma io la vedo. Uno dei notti sono rimasto io. E chiudi tu, no, e chiudi tu, no, chiudi tu prima tu. Io quando ci vado a scuola alle 2 passavo i miei vestiti, dovevo fare, mi salutavo ogni giorno, mi salutavo io una di due. Ma lei non ti conosceva prima, ti aspetto, no? Poi vi siete conosciuti, com'era la storia? Vi siete conosciuti la prima volta e si è spaventata? No, la verità non si è spaventata per niente. Ma se sono aspettato un tubo non ti preoccupare. No, l'ho conosciuta, è venuta lì a piedi, perché mi ha chiesto il libro dove ero io a scuola, un libro verde di elettronica era, me lo ricordo ancora. Io l'ho dato e si è presentata, eccetera, eccetera, e ha detto che non era interessata, tutto lì, non è che capito. Era già fidanzata e cose del genere. E io ho detto, ma pazienza, cosa... No, perché non voglio più intesa baracchino, la verità. So che in parte che era entrata lì a lavorare in Russia, mi ha detto lei, dice, sono professore, sono industriale, ci ho vinto un concorso e sono professore. Ehi, mi è arrivata l'email Pacco Bartolini in arrivo. La UNSRN si è affidata alla spedizione, prevediamo di consegnare il 28. E il 28 è lunedì forse, vediamo. Candelario. 28, martedì. Eia, ah, che bello. Riesci a vedere un attimino. BRT, sì, c'è anche il codice per tracciare. Bello. Ah, che bello che fare acquisti. Perché i sasseri non hanno un cacchio. Lo devo ordinare da fuori. Capito? E infatti io ordino da fuori. Per me può anche crepare i sasseri, che non ha nulla. Ma che mi fa? Adesso mi sto facendo la carta che padre sto facendo. Oh, devo aprire, anzi ho aperto già il corso e non pago niente. Adesso il primo penso che di finire la frase a me lo mi insegni come utilizzare la carta, fare acquisti sui pay, eccetera. Così non posso dirmi a chi era nessuno. Eia, è una grande cosa la carta PayPal. Io per esempio non ho una carta PayPal, ho una normale carta di credito prepagata che ho collegato al conto PayPal. Capito? Quando vado a pagare con PayPal leva i soldi dalla carta di credito che è della banca, capito? Eia. Bene. Sono contento quando arrivano pacchi. Purtroppo qua non c'è niente. Per esempio, no? Antonè, per il campeggio, se uno vuole fare campeggio, fare scampagnate e cucinarsi qualcosa al momento, no? Anzi portarsi un panino, che è una cosa banale. Ci sono tanti tipi di fornelletto, puoi usare il fornelletto a gas, che è più banale e anche più usato, perché non sporca le pentole. Poi ci sono fornelletti ad alcol, molto validi, fornelletti a esbit, cioè sono fornelletti a combustibile solido. Tu li metti questa tavoletta di una sostanza chimica che brucia e ti scalda le pietanze, ci puoi preparare un pasto, no? Quindi abbiamo detto gas, alcol, esbit, e poi sono usciti questi fornelletti molto simili a quelli col combustibile solido, però usano alcol in gel. Tu compri queste bottigliette o piccole o grandi di alcol in gel, e sembra sapone liquido, no? Lo metti nel fornelletto, è piccolo fornelletto, sta nel taschino della camicia, metti il gel, accendi, metti la pentola e cucina, capito? Io ce l'ho di tutti i tipi, cioè non tutti, mi deve arrivare questo con l'alcol in gel, capito? È l'ultima frontiera, lo stanno adottando le forze militari inglesi. Eccolo, per quello andiamo in coso, abbiamo il fornitore automatico. In Groenlandia andiamo a fare un buco in mezzo al ghiaccio e a voi ragazzi, chi per gli accendi ti scaldi la bistecche. Via. Poi metti che finisca la bombola sabato sera, se abbiamo tutti i fornelletti che servono, se hai finito il gas, così quello ad alcol o quello a combustibile solido, ci abbiamo un bel di roba. Per esempio, ecco, quello che ti volevo dire, volevo arrivare al punto, quando tu vai da Decathlon, che vende tutta roba per il campeggio, per il tempo libero, loro hanno solo i fornelletti gas, della butangas, come si chiama? No, butangas, camping gas, hanno solo quelli. Ho detto, ma non avete il fornelletto frangia ad alcol? E dice, no, quelli no. E non avete nemmeno i fornelletti esbit, si chiama così la marca, esbit, quello fornelletto vuole combustibile solido. No, dice, non ce li abbiamo, capito? E molte cose non ce l'hanno. Forse le trovi. Tu lo conosci in piazza Colonna Mariana con il negozio di Campeggio, Antonelli, l'hai mai visto? Piazza Colonna Mariana. Sì, se non l'avevo visto quando era il negozietto. Ma ci sono tanti miei negoziati che vendono questa roba qua per Campeggio. Sì, comunque c'è, dalla parte bassa della piazza c'è questo sotto un porticato, un negozietto di vende tende, ferrino, sacchi a pelo, tutta roba per scout, ma i prezzi sono molto, molto alti, è un bel caro. Forse lì trovi per esempio il fornelletto Esbit. Una volta questo combustibile solido si chiamava metta, era metaldeide ed era tossico però, capito? Quindi non lo usano più il metta, adesso usano l'esbit che non è tossico, capito Antone? Non è tossico, non lascia residui. Io non sapevo esistessero tutte queste cose prima. Poi ho visitato un negozio di articoli militari che ha tutte queste cose interessanti, capito? E poi ho preso un kit per due persone, pentola per cucinare, tegame per friggere, cuocere, tutto quello che vuoi. E poi ci sono, quindi pentola, tegame, due piatti in alluminio e due tazze per bere, due bicchieri in plastica, capito? Perché quest'anno faremo scampagnate, anche al mare, sì, al mare, no? Specialmente che non vuoi mangiare roba fredda, che fa anche schifo. E cucini due cosette, anche due uova fritte ti puoi fare, tutto quello che vuoi ti puoi fare. Oppure puoi scaldare bevande fredde che vanno scaldate, te le scaldi, capito? Perché mangiare roba calda è già tutta un'altra cosa che mangiare roba fredda, si digerisce anche meglio. Io già lo so, a 10 minuti che mi convinco la pizza per mettere un intero fornetto. Vai pure, io vado a bere, dai. Cazzo, poco si piega la mano, ma cazzo. Un altro, no? E poco si sta piegando adesso la mano qua. E anche la cosa. Questo cazzo di vento sta cominciando la raffica di colpo, mi. Come la salvo? Sale uguale. Se riscende tutto, mi. Se ne vola tutto. No, almeno ci sono i tiranti. Almeno quello è sofortunato. Non sono stati tiranti uguali. È una cosa allucinante, ma sto vento di merda. Allora io la via dentro con questo vento così. Questa è solo luce. Domani mattina c'è acqua, tutto il coso. Buoni questi biscotti. Io mi sono messo la pinza nel fornetto. Ci ho messo le acciughe, prosciutto, speck e basta. Ah, una torta di zucchine, così è? Sì, c'è tutte le zucchine ripiene, quelle che si fanno, no? Le zucchine ripiene prendi la zucchina, la svuoti, la taglia, metà la svuoti, la riempi con quello che c'è all'interno. Invece questa è proprio, forse di avere la zucchina aperta, se ti li piccolini, quadrati, e fai la tortina, fai. Avete nel forno è molto molto meglio, è buona pure, sono altro, adesso i tumi, esce di testa per quel cavolo di tortina, stavolta si è mangiato mezzo piatto. Oh, mi piace, ma cos'altro ci metti, con cosa la condisci questa tortina, dimmi. Uova, adesso vedi con uova, pane grattugiato, zucchine, per la pera di subito se il sugo ci mette un po' di amore, sale, poi a volte vabbè, se vuoi peperoncino ci mette appena appena. Se mi faccio la ricetta, la ricetta, facciamo bene, così ce la puoi fare anche tu, al limite. Neia, sì, infatti sembra una cosa buona, sicuramente buona, poi si piace anche a Tommy, figurati. Anche perché le zucchine dello spirito mi hanno offerta oggi, 1 euro, l'hai capita, oggi c'è perché roba 1 euro, olive, da quella roba c'è 1 euro qui, sono andato a fare la spesa oggi. Di nuovo, ieri l'ho fatta pedata, non c'avevo proprio un tubo più. Poi l'ho fatta, sono uscito io, un'ora fa, ho pigliato quello che mi mancava. Adesso domani mi piglio un po' di roba di nuovo, da 1 euro, me la metto da parte, tipo salame, mortadella, cina offerta, e altre cose varie. Eia. Non c'è un granché in televisione, non c'è di interessante, non c'è molto, anzi molto poco di interessante, però devo stare in questa stanza che è fredda, dai, vado o alla TV, qualcosa mi guarderò, a costo di guardarmi Focus oppure D-Max, 52, che c'ha sempre roba interessante. Ok Antonio, sentiamo poi domani, spero di entrare. Sì, sono dei vari film pornografici. Va. Aspetta, oggi sono stato tutto il giorno con la TV accesa, sdraiato, con la copertina sopra. Sono in pigiama, in pigiama. Cioè, non sono uscito, sono rimasto tutto il giorno a letto, a guardare la mia TV. La vita del porco. Poi mi sono svegliato, mi sono alzato e ho mangiato. C'è la vita di Alberto Porto, infatti. Quando succede, guarda, ci sono i film vietati meno di 14 anni. Gli avventori di Cosci Bianca, eccetera, eccetera. Succede a me a quest'ora di truffi. Poi c'è quello che fanno vedere quei cosi americani dove fanno sesso, eccetera, eccetera. Filmati. Di tutto, questo. No, non mi piacciono quelli. Mi piacerebbe vedere qualcosa su Focus di bello, che parli di scienza, di spazio, di come è fatto l'universo, anche documentari sugli animali, insomma qualcosa di più interessante, dai, più interessante del sesso, il sesso ormai è scontato, capito? No? Basta, non siamo più 14 anni. Ok Antonio, dai, ci sentiamo, mi attacco alla TV, qualcosa farò, dai, a domani, poi vediamo com'è il tempo, vediamo quando posso venire a fare una bevuta, capito, in base a flash, certi giorni ho più voglia di uscire, certi giorni proprio non ne ho come oggi, capito. Ok, domani è sabato, magari anche chiuso lì al distributore, boh, non lo so, non mi ricordo. Santone, ciao, ci sentiamo domani nel caso. Domani mattina, ma la prossima all'1 e mezzo del distributore, poi che è chiuso. Sì, ma ce ne sono altri corsi, non è per quello il problema. Se vuoi uscire a metti qualcosa, se ne provo acqua per la stanotte, io acqua non l'ho visto, c'è questo vento fuori, se vuoi che questo vento acqua non mi vedo, quindi la notte non la faccio domani, non mi sembra strano. Già doveva piovere ieri, cioè doveva piovere ieri notte o stamattina, non ha piovuto niente, se non sbaglio, non ha piovuto, sì c'è vento, quando c'è vento di solito non piove, di solito, ma chi lo sa, domani, aspetta, la Nuova Sardegna domani ha dato a metà serata temporali, tipo da mezzogiorno, poi nel pomeriggio, da mezzogiorno alle 5 di sera, temporali, dice, ma c'è vento, magari non piove, invece domenica in teoria dovrebbe essere sole, sole pieno, e a Platamone è pieno di gente. Beh, binocolo io, che per fare quello medicale. Ci mettiamo in un punto così quando controlliamo quando si spogliano. Tiberia. No, vabbè, ma nessuno fa il bagno, vanno tutti, per esempio l'altra domenica c'era la gelateria presa d'assalto, sono medicenti alla gelateria. Aspetta, infatti non facevo a pigliare il gelato, io mi sono pigliato al bar lì, mi sono seduto ai tavolini dentro, mi sono preso roba di, cos'era, latte macchiato, cappuccino, solita caffetteria, dai. E io al bar non prendo altro, caffetteria sempre, oppure nemmeno bibite prendo, preferisco la caffetteria. Però bancarelle nulla, bancarelle non ce n'erano, nulla, né toronaio, né neri, né pakistani, né cinesi, ancora è troppo presto, però man mano che migliorerà il tempo cominceranno a mettersi le bancarelle, vedrai. Ok Antone, dai. E c'è sempre quella donna che vive lì, vive proprio alla rotonda, che si è fatta una specie di rifugio tutta con teloni verdi, c'è quei teloni verdi di plastica per coprire la roba, e vive così, cioè da quest'estate che vive così, si becca tutto il freddo, si becca il vento forte quando arriva il vento forte, come quel vento forte che c'è stato giorni fa. Ho detto, signora, ma lei non può vivere così, le fa male alla salute. E poi nessuno le intestera una casa, non credo, a meno che non sia proprio un buon samaritano. Dice che non ci vuole andare in quei luoghi di accoglienza, non ci vuole andare perché ha detto che è come in prigione, è tutto orari, a quell'ora si mangia, a quell'ora si va a letto. Non puoi uscire, devi tornare massimo alle 9 di sera se non chiudono le porte, cioè, siccome è una che è stata in prigione, questa era dell'anonima sequestri, lo sai, si è fatta non so quanti anni di galera, e quindi lei ha detto che è come la galera, che la galera l'ha conosciuta e questi luoghi di accoglienza sono come la galera, capito? Non hai libertà di tornare all'ora che vuoi, non hai libertà di mangiare all'ora che vuoi, e quindi preferisce starsene lì all'aperto, però fa male la salute, non so quanto, quella morirà lì, vedrai. E beh, a un certo punto se rifiuta l'aiuto è libera di fare quello che vuole, a meno che non ci sia proprio tempo brutto, cioè che non ci sia tempo pericoloso, allora la ricovererebbero, gli fanno il TSO, se proprio sta male, che ne so, oppure il tempo è talmente brutto da poter minacciare la sua stessa vita, le fanno il TSO, trattamento sanitario obbligatorio, almeno la salvano da tempeste, uragani, mareggiate. Guarda, io in quelle condizioni non avrei mai saputo vivere, assolutamente no, questa è dura, ma è una tipa tosta, non è una solita vecchia che sì, questa tiene duro, ha detto che finché non ha la casa, che non gli regalano una casa come fanno agli zingari, ai romeni, no? E vuole che sia firmata anche, vuole vedere la firma, perché non, sulla parola non ci crede, vuole vedere una firma che gliela intestino a lei, capito? Se non da lì non si muove, ha detto. Te le immagini? Sì, non mancano. Sperati, stiamo dopo che facciamo una cosa adesso. Ehi, io chiudo Antone, dai, domani, ciao. Sì, ciao Marco, a domani.